gente, mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sente assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. Tu presta il mio orecchio che ti porto nel mio mondo, quello che si sente non c'è gravemente all'ascolto. Sono affetto da un morbo, grazie al quale affetto affetti in tagli netti da una fetta, ma senza fretta in effetti, piazzati con schemi metrici dotati di un effetto di ritorno. Intorno l'atmosfera è maliziosa, qui chi sbaglia osa e questo sarebbe il colmo. Assorbo le onde d'urto dell'impatto, in quanto il senso late alquanto astratto, estratto e strapolato dal mio estro. Mi sento diverso e spesso cerco spessore ad ora tarda, ma non basta, a volte non mi passa e mi resta il chiodo fisso. Odo un fischio ma mi fischiano le orecchie, mi rispecchio in vecchie storie di quartiere, classiche scene che te le ripropongono in tele. Testo tele, testo testi con la testa per sapere, nascondigli dove l'occhio non arriva. Una prospettiva che si schiva, priva di iniziativa nella stiva di una barca alla deriva. In balia dei quattro venti, tendo i tendini per tenderti i tranelli. Tanto tanti fanno quelli, o tanto meno fanno meno mentre affilano i coltelli. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria perché ti fa scacco matto, quando è in preda all'alcol, quando è in preda all'hardcore. Raccontato con la realtà più vera, quasi fa musica seria e tu prendine atto. Io me ne faccio una ragione, trasmetto ciò che ho dentro attraverso una vibrazione che si pronuncia vibe, non vibe come l'inglese. Virux più beta, patrimonio calabrese. Alle prese con la gente che ho avuto la fortuna di conoscere in un viaggio lungo tutto il paese. Con l'hip hop nel cuore, con una passione che scorci dei loro occhi, tanto è palese. Perciò sono fiero, perché ognuno di loro è un amico sincero, un tesoro a me caro. Dove le gemme sono le gem con i miei rega di Crotone, Cosenza, Bologna, Bolzano. Ovunque mi trovi ho una famiglia adottiva, rispetto per i miei fratelli, affetto e stima. Arena 051 Nido Sound, clima perfetto, l'effetto underground. Un perfetto background di valori, zero ipocrisia, formalità, chi le ha ne sta fuori. Tradire la mia gente un'assurdità, come una collabo tra in Italia sotto tiro clan. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende. La mia gente è gente seria che ci crede veramente, rema controcorrente, sempre assenza di coerenza tra la gente. Personalmente mi diverto quando qua davanti la folla si accende.